Italia in controluce. Raccontare l'Italia attraverso gli occhi della cronaca, questo è il compito di Italia in controluce. In studio Daniele Biacchesi per quest'oggi 26 luglio. La prima storia è quella di una base militare in Sardegna, Perdas de Fogo, raccontata dallo scrittore Massimo Carlotto nel suo fortunato libro. Alessandra Tedesco ha intervistato Massimo Carlotto. Parliamo di Perdas de Fogo. Innanzitutto ricordiamo ai nostri ascoltatori che cos'è il poligono di Quirra. Il poligono di Quirra è l'unico poligono di area NATO dove si sperimentano esplosivi di nuova generazione e dove possono fare i privati pagando 50.000 euro l'ora, autocertificandosi. E in tutti gli altri paesi della NATO sono stati chiusi perché inquinano, e invece quello di Perdas è rimasto, il salto di Quirra è rimasto aperto ed è l'unico, per cui abbiamo un uso continuo di questo territorio, ed è stato scoperto che in questo territorio questi nuovi esplosivi generano delle nanoparticelle che sono altamente inquinanti, e da qui è nata finalmente un'inchiesta e anche, diciamo, quasi un moto popolare in Sardegna proprio perché venga chiusa questa vergogna. Che cosa si è scoperto? Che cosa produce questo inquinamento? Queste nanoparticelle vengono assorbite dagli organismi, non solo umani ma anche degli animali, e non vengono più espulse, si forma intorno a ogni nanoparticella una microinfiammazione che nel tempo può rimanere silente ma può anche generare delle patologie. E da quello che si evince da questa inchiesta, che è un'inchiesta anche molto serrata, è che queste nanoparticelle, ormai è provato a livello internazionale che provocano patologie terribili, ma in quella zona pare che abbiano segnato profondamente il territorio e le persone, gli animali che ci vivono. Si parla di animali malformati e pastori che sono rimasti in qualche modo colpiti da malattie. Sì, si parla di un alto numero di pastori, tra l'altro sono state riesumate parecchie salme ultimamente per poter fare finalmente questi esami, e non si capiva all'inizio, meglio quando noi abbiamo cominciato a raccogliere materiale per scrivere il romanzo, come mai i pastori che fanno una vita sanissima in realtà si ammalavano tutti di leucemia, lo stesso tipo di leucemia. Alla fine, insomma, a me sembra chiara la ragione, comunque aspettiamo l'inchiesta. Da quando si è iniziato a notare che c'erano queste anomalie negli animali e nelle persone? No, da moltissimi anni, però per moltissimi anni c'è stato un depistaggio rispetto anche alle indagini scientifiche, c'è stato un silenzio colpevole e dopo invece c'è stata la contraddizione, non poteva più essere nascosta, per cui insomma alla fine è esploso il caso. E addirittura forze politiche che un tempo erano favorevoli al poligono adesso cominciano ad avere una posizione assolutamente contraria. Questo secondo me è un buon segno. Ecco, a proposito di politici, l'amministrazione locale in Sardegna che cosa si fa? Ma lì il problema è che c'è un equivoco di fondo, nel senso che le amministrazioni locali, per esempio il comune di Perdas de Fogo, è convinta che bisogna difendere assolutamente il poligono perché significa difendere i posti di lavoro, e questo è un dibattito che abbiamo già fatto a distanza. Noi continuiamo a portare l'esempio di quella che è stata l'esperienza di Porto Marghera, Monfalcone e altri posti dove in nome del posto di lavoro la gente si è ammalata ed è morta, e quindi voglio dire è un tipo di ragionamento che va fatto, insomma. Magari si può riqualificare il territorio in altro modo, insomma, magari attraverso il turismo, è una delle zone più belle della Sardegna, quindi si può fare. E l'opinione pubblica invece come la vede? L'opinione pubblica sempre di più oggi è schierata per la chiusura del poligono, perché l'opinione pubblica, quando si viene informata ma su un fatto fondamentale, nel senso che la Sardegna non è un angolino dell'infinita steppa siberiana, è un'isola a vocazione turistica, non ci può essere l'unico poligono di area NATO di tipo sperimentale, non ha veramente senso, deve essere chiuso e basta. Risposte invece da parte della NATO non ce ne sono mai state, riguardo appunto queste anomalie che sono state riscontrate? No, assolutamente no, anche perché c'è una gestione un po' Ministero della Difesa, un po' mondo privato, delle aziende private, per cui tutti hanno l'interesse che rimanga aperto, perché nessuno ha l'interesse che venga aperto uno simile in casa propria. Adesso sono stati posti i sigilli, la magistratura ha posto i sigilli a Perdas de Fogu, come la vedi? È un atto fondamentale perché permette che ci sia finalmente un'inchiesta. Tra l'altro l'inchiesta a partire dalle nanoparticelle è finalmente dal punto di vista scientifico l'inchiesta giusta. E la direzione è quella e secondo me non porterà che a risultati differenti da quello della chiusura del poligono. Nel libro Perdas de Fogu tu descrivevi quello che accadeva, insomma era tutta realtà quella che descrivevi, non c'era fantasia. Sì, un libro che tra l'altro abbiamo scritto a 20 mani, perché l'ho scritto con il collettivo Sabon, ma non avevamo nessun dubbio, dopo 2 anni di inchiesta, qui abbiamo scritto 2000 pagine di inchiesta per scrivere 180 pagine di romanzo, cioè non avevamo assolutamente dubbi. La ragione era quella per cui abbiamo scritto questo romanzo con questa voglia di denunciare, e alla fine credo che il romanzo, come hanno riconosciuto in molti, è stato proprio una delle molle che hanno fatto scattare questo meccanismo anche di voglia di andare a vedere che cosa accade veramente nel poligono del Salto di Quirra. Nella seconda parte di Italia in Controluce Andrea Ferro racconta la storia di Don Gallo da Genova. Un asilo diurno e notturno che da 40 anni è aperto a chi bussa alla porta. Uomini e donne alla deriva, inciampati tra le trappole della vita e carambolati dalla parte sbagliata oppure illusi e poi abbandonati. Uomini persi e donne di vita, italiani, stranieri. Questo crocevia di esistenze è la comunità di San Benedetto, affacciata sul porto di Genova e a sua volta porto sicuro tra banchine cementificate sulla solidarietà. Il faro che indirizza le rotte è un prete di frontiera di 82 anni, si chiama Don Andrea Gallo, missionario in Brasile, salesiano, ordinato sacerdote nel 1959, inizia a raccontare il Vangelo sulla Garaventa, un riformatorio galleggiante. Nel 1965 è vice parroco alla Chiesa del Carmine e così inizia la storia della comunità di San Benedetto. Io, che ero un salesiano, decisi di chiedere al cardinale di Genova se mi accoglieva da genovese nel clero secolare. Lui mi assegnò alla parrocchia del Carmine, dal 65 al 70. Non ti dico, sai, erano anni straordinari, formidabili. Per i noi cattolici del 65 termina il Concilio Vaticano II, quindi la primavera della Chiesa. Quindi abbiamo vissuto con i giovani il 68, sai, quindi di nuovo gioia, la fantasia al potere, una cosa. E allora si era creata al Carmine, dopo scuola, attività, iniziative, e canti, e giochi, il popolo. E allora i miei superiori avevano pensato che era l'ora di cambiare aria. E allora fui addirittura l'unica volta nella mia storia della vita che ricevo una proposta di avanzamento, come si dice in carriera. E il maggio del 70 vengo chiamato dal vescovo ausiliare, allora Monsignor Chiocca, tutto sorridente, mi accoglie e dice: Sua Eminenza ti ha nominato arciprete. Arciprete, ben che salto, io al Carmine ero vice dei vice. Arciprete, dico, storia, dico, dove? E dice, all'isola di Capraia. Ma all'isola di Capraia Don Andrea Gallo resta pochi mesi, torna a Genova dai genitori, senza parrocchia, con i ragazzi del Carmine che vanno a trovarlo per continuare quell'esperienza improvvisamente interrotta. Uno di loro chiama Don Federico Rebora, il parroco della chiesa di San Benedetto, che decide di accogliere Don Andrea e il suo gruppo nei locali della chiesa. E abbiamo iniziato proprio 40 anni fa, l'8 dicembre del 1970. Come la chiamiamo questa comunità? E io ero molto restio, nome comunità vuol dire comunione, vuol dire condivisione, e allora la chiamavamo Porta Aperta. Perché? Perché già allora, non ti dico, file già i primi marittimi rimasti africani e la tossicodipendenza che cominciava, e quindi Porta Aperta per tutti coloro, dato le disfunzioni della società. Oggi ci troviamo, ti assicuro, un vecchio come me, che a un certo momento ricomincia come prima, qui arrivano, non so, i nuovi poveri addirittura, chi non riesce a pagare le bollette, chi non riesce... E allora noi tentiamo, è un continuo giorno, ecco, praticamente in un minuto la comunità San Benedetto dice parte dalla solidarietà assistenziale, che ha i suoi aspetti positivi, però per fare un salto di qualità nella solidarietà liberatrice, cioè strutturale, cioè far riconoscere i diritti essenziali di tutte le persone in città. Nel terzo millennio il disagio si aggiorna e si ricicla sulle nuove povertà, stranieri, famiglie senza prospettive, un futuro che per molti non prospetta speranza. Ma siamo di nuovo in trincea, Però il nostro obiettivo rimane, ecco, di stimolare le istituzioni, di stimolare, e infatti stiamo gridando a tutti, di guardate che non è vero che le scelte obbligate dei tagli sempre per i più poveri, e non abbiamo padrini né a destra né al centro né a sinistra, e tantomeno nella Chiesa. Don Andrea Gallo, prete di frontiera e prete contro, spesso le sue posizioni hanno sollevato richiamo delle gerarchie ecclesiastiche, le sue prediche non piacevano alla curia e ai teologi. Perché a volte di fronte alla Chiesa, che almeno io che sento appartenenza alla Chiesa, che sento la Chiesa cattolica la mia casa, ecco che anch'io a volte mi rivolgo ai miei pastori legittimi e dicendo: ma tra i principi non negoziabili c'è l'annuncio di Gesù liberatore o questo principio è negoziabile? Mentre mi sembra che lo state negoziando con questa ambiguità nel contesto politico-sociale, di sminuire le malefatte di tutti i vari partiti, perché volete difendere i vostri privilegi e acquisire degli altri. A rimuovere Don Gallo dalla parrocchia del Carmine era stato il cardinale Giuseppe Siri, uno dei principi della Chiesa, che per due volte sfiorò il soglio pontificio. In pubblico un rapporto contrastato. Un giorno il cardinale disse di Don Gallo un povero prete. Richiami, polemica a distanza. In privato però tra i due scorreva simpatia. E Siri ha un rapporto speciale, che io ho sempre detto quello che pensavo, pubblico non ti dico, e invece io in udienza mi dava una confidenza. Non so, gli dicevo: Eminenza, mi hanno di nuovo chiamato in tribunale ecclesiastico perché sono stato in Via del Campo, qui, là, su e giù. Dice: quelli giù di Sutta, il tribunale era sotto di lui, lasciali un po' discutere, come stanno i tuoi vecchi? Mi parlava in vernacolo, addirittura voleva che mi raccontasse le barzellette sul suo corpo, che c'è sempre in giro, cos'è di Jean de me? Una volta mi ha dato dei soldi anche, dico: Eminenza, non manco c'è una palanca, mi faccia due righe che vado in econometo. No, non dirà nessuno, seghelò te da gomì. Mi tira fuori che non l'avevo mai visto, una banconota di 100.000 lire, non l'avevo mai vista. E poi di nuovo col gesto della mano altri 100, e poi altri 100. Poi si alza per concedermi: mi raccomando, non dirà nessuno. E dico: ma dico, scusi, magari mia mamma mi pulisce la cosa a mia antuporta. Poi cosa che dico? Sai, io ti chiedi che te hai vinto un terno lotto. È tutto per la seconda edizione di Taglia in Controluce. Cercateci su Facebook, Twitter. Ritorniamo domani alle 6:30 su Radio 24.